Quando, riaccompagnato il dottor Du Boulbon, tornai nella stanza dove sola mi aspettava mia madre, la tristezza che mi opprimeva da settimane svanì. Capì che la mamma avrebbe dato sfogo alla sua gioia e avrebbe visto la mia. Sentì quell'incapacità di sopportare l'attesa dell'attimo sopravveniente, l'attimo in cui una persona accanto a noi proverà un'emozione che è un po', su un piano diverso, come la paura che si avverte quando si sa che qualcuno entrerà per spaventarci da una porta momentaneamente ancora chiusa. Volevo dire qualcosa alla mamma, ma mi si spezzò la voce e scoppiando in lacrime rimasi a lungo con la testa sulla sua spalla a piangere, ad assaporare, accettare, vezzeggiare il dolore, adesso che lo sapevo scomparso dalla mia vita, così come ci inebriamo di progetti virtuosi che le circostanze non ci consentiranno di attuare. Françoise mi esasperò rifiutandosi di prendere parte alla nostra gioia. Era tutta sconvolta perché era appena scoppiato un tremendo litigio fra il lacchè e il portinaio spione. La duchessa, nella sua bontà, era intervenuta a ristabilire una parvenza di pace perdonando il lacchè, perché era buona lei e non ci sarebbe stato posto migliore se non avesse dato ascolto ai pettegolari. Già da parecchi giorni si era sparsa la voce che la nonna stava male e c'era chi chiedeva sue notizie. Saint-Lieu mi aveva scritto: «Non voglio approfittare di queste ore in cui la tua cara nonna sta poco bene per farti dei rimproveri, e che rimproveri, con i quali d'altronde lei non ha nulla a che vedere. Ma mentirei se ti dicessi, sia pure per preterizione, che potrò dimenticare la perfidia della tua condotta e assolverti dalla tua doppiezza e dal tuo tradimento. Ma alcuni amici, ritenendo lieve la malattia della nonna o addirittura ignorandola, ma avevano chiesto di passare a prenderli il giorno dopo ai Champs-Élysées per andare insieme a fare una visita e poi in campagna a un pranzo che mi avrebbe divertito. Non c'era più nessuna ragione per cui dovessi rinunciare a questi due piaceri. Quando avevano detto alla nonna che adesso, per obbedire al dottor Du Boulbon, avrebbe dovuto fare molte passeggiate, lei, come si è visto, aveva parlato subito dei Champs-Élysées. Mi sarebbe stato facile accompagnarcela e, una volta che si fosse seduta a leggere, mettermi d'accordo con i miei amici su dove incontrarci. Sbrigandomi, avrei ancora fatto in tempo a prendere assieme a loro il treno per Ville d'Avray. Al momento convenuto, la nonna, sentendosi stanca, non volle uscire, ma la mamma, istruita da Du Boulbon, trovò la forza di inquietarsi e di farsi ubbidire. Piangeva quasi al pensiero che la nonna potesse ricadere nella sua debolezza nervosa e non venirne più fuori. Mai ci sarebbe stato un tempo così bello e caldo, così adatto per uscire. Il sole, cambiando posizione, insinuava qua e là nella spezzata solidità del balcone le sue mussole inconsistenti e stendeva sulla pietra da taglio una tiepida epidermide, un impreciso alone dorato. Françoise, non avendo avuto il tempo di inviare un pneumatico a sua figlia, ci piantò in asso subito dopo colazione. Fu già un miracolo se, prima, scese da Jupien a fargli mettere un punto alla mantellina che la nonna doveva indossare per uscire. Poiché tornavo proprio in quell'istante dalla mia passeggiata mattutina, entrai con lei dal farsettaio. «È il vostro giovane padrone a condurvi qui?» chiese Jupien a Françoise. «O voi a condurre lui, o sono il buon vento e la fortuna a condurre sia l'uno che l'altra.» Benché non fosse andato a scuola, Jupien rispettava la sintassi con la stessa naturalezza con cui il signor di Guermantes, a dispetto di non lievi sforzi, la violava. Partita Françoise e riparata la mantellina, per la nonna venne il momento di prepararsi. Rifiutò ostinatamente che la mamma rimanesse con lei e ci mise un'eternità a curare da sola la sua toilette. Adesso che la sapevo in buona salute, con la strana indifferenza che i nostri parenti ci ispirano finché sono vivi e che ci induce a relegarli sempre all'ultimo posto, pensai quanto fosse egoista impiegare tutto quel tempo rischiando di farmi far tardi mentre sapeva che avevo appuntamento con degli amici e dovevo pranzare a Ville d'Avray. Finì, per impazienza, col precederla sulle scale, dopo essermi sentito dire un paio di volte che era quasi pronta. Alla fine mi raggiunse, senza chiedermi scusa come faceva di solito in questi casi, rossa e distratta come una persona che ha fretta e si è dimenticata 5 delle 10 cose che doveva prendere, nell'attimo in cui stavo per varcare la porta a vetri socchiusa, attraverso la quale, senza minimamente riscaldarli, l'aria liquida, mormorante e tiepida dell'esterno fluiva, come da un serbatoio aperto, fra i muri gelidi del palazzo. «Mio Dio, dato che devi vedere degli amici, avrei potuto mettermi un'altra mantellina. Con questa sembro una disgraziata!» Mi colpì quanto fosse congestionata e capì che, sentendosi in ritardo, si era affrettata oltre misura. Appena smontati dal fiacre all'imbocco di Avenue Gabriel, nei Champs-Élysées, vidi che la nonna, senza dirmi nulla, si era voltata e si avviava verso il piccolo, vecchio padiglione verdeggiante dove una volta avevo aspettato Françoise. La stessa guardia forestale che c'era quel giorno si trovava ancora lì, accanto alla marchesa, quando, seguendo la nonna che probabilmente aveva un attacco di nausea, visto che si teneva una mano premuta sulla bocca, salì i gradini del piccolo teatro rustico costruito in mezzo al parco. Al controllo, come nei circhi da fiera in cui è lo stesso clown, già pronto ad entrare in scena e tutto infarinato, a riscuotere all'ingresso il prezzo dei posti, la marchesa era sempre là che forava i biglietti, con il suo muso enorme e irregolare, impiastrato di pessimo belletto e il cappellino di pizzo nero con fiori vermigli posato in cima alla parrucca rossa. Ebbi l'impressione, però, che non mi riconoscesse. La guardia, trascurando la sorveglianza delle verzure, al cui colore era intonata la sua uniforme, le sedeva accanto e faceva conversazione. «E così», diceva, «siete ancora qui. Non ci pensate proprio a mettervi a riposo, voi?» «Ah, e perché dovrei farlo, signore? Dove potrei stare? Ditemi meglio di qui. Dove potrei avere più agi e più comodità? E poi c'è sempre movimento qui, c'è sempre distrazione. Oh, io la chiamo la mia piccola Parigi. I clienti mi tengono al corrente di tutto ciò che succede. Ecco, per esempio, ce n'è uno che è uscito 5 minuti fa. Un magistrato molto, molto su. Ebbene, signore...» E la marchesa sottolineò la sua affermazione con calore. Pronta, si sarebbe detto, a ricorrere alla violenza, pur di sostenerla, se il rappresentante dell'ordine avesse mostrato di contestarne l'esattezza. «Sono 8 anni, non so se mi spiego, 8, che tutti i giorni che Dio manda in terra, alle 3 in punto, lui viene qui, sempre gentile, mai che alzi la voce, mai che lasci in disordine, e se ne resta più di mezz'ora a leggere i giornali mentre fa i suoi bisogni. Una sola volta non è venuto. Al momento non me ne sono accorta, ma la sera di colpo mi sono detta: accidenti, ma quel signore non è venuto, non sarà mica morto. Mi son sentita qualcosa dentro, perché io mi affeziono quando la gente è come si deve, e sono stata davvero contenta quando il giorno dopo l'ho rivisto. Mi è successo qualcosa ieri, signore? Gli ho domandato. E lui mi ha risposto, tranquillo, che non gli era successo niente, che era sua moglie che era morta, e lui si era sentito così sottosopra che non aveva potuto venire. Si vedeva che era triste, naturale, potete ben capire. Erano sposati da 25 anni, ma era anche contento di essere di nuovo qui. Si capiva che era rimasto tutto scombussolato nelle sue piccole abitudini. Ho cercato di tirarlo su, gli ho detto... «Non bisogna lasciarsi andare, venite da me come prima, vi darà un po' di distrazione nel vostro dispiacere». La marchesa proseguì su un tono più dolce, avendo constatato che il protettore dei prati e dei cespugli l'ascoltava con bonomia, senza sognarsi di contraddirla e lasciando in offensiva dentro il fodero una spada che faceva pensare piuttosto a uno strumento da giardinaggio o a un attributo orticolo. «E poi», riprese, Io li scelgo, i miei clienti. Ah, non ricevo mica il primo venuto in quelli che chiamo i miei salotti. Non sembra forse un salotto con tutti questi fiori? Sapete, ho dei clienti talmente gentili che se non è uno e l'altro mi portano sempre un bel ramoscello di lillà, di gelsomino, oppure qualche rosa, il mio fiore preferito. Il pensiero di poter essere forse giudicati male da quella donna perché non le portavamo mai né lillà né belle rose mi fece arrossire e, nel tentativo di sottrarmi fisicamente a una condanna o di limitarmi a subirla in contumacia, mi spostai verso l'uscita. Ma si vede che non sempre nella vita le persone che ci portano le belle rose sono quelle con cui siamo più gentili, perché la marchesa, pensando che mi annoiasse, mi chiese: Volete che vi apra uno degli stanzini? E al mio rifiuto: Davvero non volete? Replicò sorridendo. Ve l'avrei offerto volentieri, ma so bene che certi bisogni non basta non pagarli per averli. In quel momento una donna malvestita entrò a precipizio denunciando precisamente lei di averli, ma non doveva far parte del giro della marchesa, già che questa, con snobistica ferocia, l'apostrofò seccamente. Non c'è posto, signora. Ci vorrà molto, si informò la povera donna, tutta rossa sotto i suoi fiori gialli. Signora, vi consiglio di cercare da un'altra parte, perché, vedete, ci sono già questi due signori che aspettano, disse la marchesa, indicando me la guardia. E ho un gabinetto solo, gli altri sono in riparazione. Alla faccia di una che non paga, aggiunse. Non è gente per cui. Bah, non hanno pulizia, non hanno rispetto. Sarebbe toccato a me poi lavorare un'ora per colpa sua. Non rimpiango di certo i suoi due soldi. Finalmente la nonna uscì e, sospettando che non avrebbe cercato di cancellare con una mancia l'indiscrezione commessa trattenendosi così a lungo, batté in ritirata per non essere coinvolto nel disprezzo con cui la marchesa l'avrebbe certo ripagata, e mi incamminai lungo un viale, ma adagio, in modo che la nonna potesse più facilmente raggiungermi e proseguire al mio fianco. Il che si verificò ben presto. Pensavo che la nonna mi avrebbe detto: «T'ho fatto aspettare tanto, spero che troverai lo stesso i tuoi amici». Invece non pronunciò una sola parola. E io, un po' deluso, non volli parlare per primo. Alla fine, alzando gli occhi verso di lei, vidi che, nel camminarmi accanto, teneva la testa girata dall'altra parte. Temetti che avesse di nuovo la nausea. La guardai meglio e fui colpito dalla sua andatura a scatti. Aveva il cappellino di traverso, il mantello sporco, l'aspetto sciamannato e insoddisfatto, il volto arrossato e sgomento di chi è stato appena urtato da una vettura o tirato fuori da un fosso. Ho avuto paura che ti fosse tornata la nausea. Ti senti meglio, nonna? Le chiesi. Evidentemente pensò che le fosse impossibile non rispondermi senza mettermi in allarme. Ho sentito tutta la conversazione fra la marchesa e la guardia, mi disse. Era un concentrato di Guermantes, di piccolo clan Verdurin. Dio mio, che termini galanti per esprimere quelle cose. E, attingendo alla sua marchesa, Madame de Sévigné, aggiunse con diligenza: Ascoltandoli, avevo l'impressione che mi preparassero le delizie di un addio. Tali furono le parole che mi disse, e nelle quali aveva immesso tutto il suo acume, il suo gusto della citazione, la sua memoria dei classici, in una misura un po' superiore, persino, rispetto a circostanze normali, come per dimostrarmi che continuava a possederli saldamente. Ma io quelle frasi le indovinai più che sentirle, tanto le pronunciò con voce strascicata e stringendo i denti in un modo che il timore del vomito non bastava a spiegare. «Su, vieni», le dissi in tono abbastanza disinvolto per non darle l'impressione di prendere troppo sul serio il suo malessere. Visto che è un po' di nausea, possiamo benissimo tornare a casa, se preferisci. Non voglio portare a spasso per i Champs-Élysées una nonna con l'indigestione. Non osavo proportarlo per via dei tuoi amici, confessò. Povero ragazzo, ma se proprio non ti dispiace, penso sia più prudente. Temetti che si rendesse conto del modo in cui pronunciava queste parole. Via, l'interruppi bruscamente. Non stancarti a parlare. Se è la nausea, è assurdo. Aspetta almeno che arriviamo a casa. Mi sorrise tristemente e strinse con la sua la mia mano. Sapeva di non dovermi più nascondere ciò che avevo intuito sin dal primo istante, che aveva avuto un piccolo attacco.